Effetto giorno di Simone Spezia. L'Ndrangheta nella gestione del centro rifugiati in provincia di Crotone, tra i più grandi d'Europa, in manette anche un prete e il vicepresidente delle Misericordie. Le mani di Cosa Nostra sui servizi per la Lidl e in quello dei vigilantes del Tribunale di Milano, 15 arresti e direzioni generali dei supermercati in amministrazione straordinaria. Cyberattacchi, nessuna nuova infezione di computer, dice Europol, ma in Cina sarebbero stati colpiti centinaia di migliaia di PC. Autostrade, Atlantia dà il via libera all'offerta su Abertis a 16,5 euro per azione. Nasce il gestore autostradale più grande del mondo con 36 miliardi di capitalizzazione. Lega parla, Salvini su Bossi dopo le primarie e i veleni. Non metto il guinzaglio a nessuno, dice, e stoppa l'alleanza con Alfano anche in Lombardia. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale saremo in diretta tra un attimo. In apertura la maxi inchiesta contro l'Ndrangheta che ha portato a scoprire i collegamenti tra la criminalità organizzata e la gestione di un grande CARA, quello di Isola di Capo Rizzuto. C'è anche il parroco di Isola Capo Rizzuto, Don Edoardo Scordio, tra le persone coinvolte nell'operazione Johnny, che ha inferto un colpo mortale alla Cosca Arena di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. La DDA di Catanzaro si è avvalsa di più di 500 tra agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza per fermare 68 persone. La Cosca, tramite Leonardo Sacco, governatore della Fraternita di Misericordia, si sarebbe aggiudicata gli appalti indetti dalla prefettura di Crotone per le forniture dei servizi di ristorazione dei centri di accoglienza di Isola Capo Rizzuto e di Lampedusa, affidati poi ad imprese costituite per spartirsi i fondi destinati all'accoglienza dei migranti. L'inchiesta ha permesso di provare anche come la potente famiglia di 'Ndrangheta avesse acquisito una posizione dominante nel settore della raccolta delle scommesse. Una società operante in Italia con oltre 500 agenzie e ramificata in tutto il mondo avrebbe messo a disposizione, tramite il barese Francesco Martiradonna, i propri circuiti di gioco online alla società Croton Games, riconducibile alla Cosca Arena, determinando volumi di fatturato sottratti al fisco per decine di milioni di euro. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Un'area, il territorio catanzarese crotonese, importante dal punto di vista imprenditoriale e turistico, ma anche nevralgica per la gestione dei migranti, sin dal 2 giugno del 1999, quando diventa operativo il centro di accoglienza di Sant'Anna ad Isola Capo Rizzuto, una delle più grandi strutture di accoglienza e identificazione in Europa, insieme al CARA di Mineo nel catanese. Secondo gli ultimi dati, ha una disponibilità di 1216 posti, sorge di fronte all'aeroporto di Crotone ed ha ospitato fino al 2015 anche un centro di identificazione ed espulsione, poi chiuso in seguito a una rivolta. Si appresta a diventare uno degli hub per migranti che il Ministero dell'Interno ha individuato in ogni regione d'Italia. Gestito direttamente dalla Prefettura nel 2012, i servizi interni al CARA di Sant'Anna sono stati affidati tramite gara d'appalto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che si è aggiudicata la gestione partecipata attraverso la Misericordia Isola Capo Rizzuto, della quale è governatore Leonardo Sacco. Nel 2016 la prefettura ha bandito la nuova gara, che è stata vinta da un'ATI, e cioè un'associazione temporanea di imprese costituita dalla Misericordia ed altre imprese locali. Il bando vale 16 milioni di euro all'anno. All'interno del CARA lavorano circa 150 operatori in più di 16 anni, dall'accoglienza nelle roulotte si è passati ai container, alle palazzine in cemento, fino a moduli abitativi prefabbricati. Ma come anche il CARA di Mineo, è da tempo sovraccarico e rischia di esplodere, secondo il sindacato indipendente di polizia COISP Calabria. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è un'altra importante operazione contro la criminalità organizzata, posto che di questa di Isola di Capo Rizzuto, torneremo a parlare tra poco. E quest'altra grande operazione è partita da Milano e coinvolge anche il mondo della grande distribuzione. Sentiamo. Sono accusate di far parte di un'associazione per delinquere che ha favorito gli interessi della famiglia mafiosa catanese dei Laudani, le 15 persone arrestate. Una associazione, si legge nell'ordinanza cautelare, che avrebbe ottenuto commesse d'appalti di servizio in Sicilia, da Lidl Italia ed Eurospin Italia, attraverso dazioni di denaro ad esponenti della famiglia mafiosa. Gli arrestati avrebbero ottenuto anche lavori da Lidl Italia in Piemonte. quattro direzioni generali di Lidl sono state poste in amministrazione giudiziaria. Nel mirino degli inquirenti sono finite anche alcune società del consorzio che ha in appalto la vigilanza privata del Tribunale di Milano, coinvolti anche funzionari del Comune. Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini. La facilità, lo ripeto, con cui vengono individuati, trovati e messi a libro paga persone disposte a fare questo è come pescare in un laghetto dove si va a prendere le trote addestrate. E questo è l'aspetto più inquietante. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo argomento e andiamo all'estero, andiamo in Francia. Dopo l'insediamento di ieri di Macron c'è grande attesa per l'incontro con Angela Merkel. Angela Merkel tra l'altro reduce da un risultato elettorale particolarmente positivo in vista delle elezioni politiche. Sergio Nava, buongiorno. Sì, buongiorno. È una prima fittissima giornata di impegni quella che attende il neopresidente francese Emmanuel Macron dopo il passaggio di consegne ufficiale ieri con François Hollande all'Eliseo. Il primo è la nomina del nuovo primo ministro, nome sul quale la stampa transalpina ha scatenato una vera e propria caccia all'uomo. Doveva essere annunciato intorno a mezzogiorno, sono le 13 passate e ancora non c'è. L'attesa a livello politico è enorme. Per ora tre i nomi più papabili: ci sono Edouard Philippe, che è vice sindaco dei Républicains ad Havre, ed è vicino a Alain Juppé, c'è Sylvie Goulard, una eurodeputata centrista, e poi Richard Ferrand, che è non solo deputato ma è anche segretario generale del movimento La République En Marche. Una volta sistemata la casella centrale a Palazzo Matignon, si spera lo farà presto, Macron volerà a Berlino per il primo incontro ufficiale con la cancelliera tedesca Merkel, che lo accoglierà verso le 17:30 con tutti gli onori militari. Macron e Merkel, lo ricordiamo, si sono già incontrati lo scorso 16 marzo, quando l'attuale presidente era un semplice candidato alle presidenziali, incontro che andò molto bene. Ci sarà anche un altro meeting da tenere d'occhio, vedrà protagonista ancora Emmanuel Macron, quello in programma il 25 maggio a Bruxelles col presidente americano Donald Trump, e infine una notizia all'ultima ora con Marine Le Pen, che è di nuovo presidente del Front National, ad annunciarlo il capo ad interim del Front National, Steve Briot. E per il momento è tutto. Grazie dunque anche a Sergio Nava per questo aggiornamento dalla Francia. Noi ci spostiamo invece a parlare di questa serie di attacchi informatici che hanno subito i computer, alcune reti aziendali e non solo, anche delle reti pubbliche. Gli aggiornamenti di questa mattina arrivano soprattutto dalla Cina. Sentiamo. Con la riapertura degli uffici dopo il weekend, WannaCry torna a far paura. A colpire potrebbero essere nuove versioni del virus responsabile del peggior cyberattacco di tutti i tempi. Al momento non si registrano nuove infezioni, fa sapere Europol, secondo cui il ransomware che blocca i computer chiedendo un riscatto di circa 300 euro per non cancellare i file ha infettato 200.000 PC in 150 paesi. Un dato che sembra però superato dalle notizie che arrivano dalla Cina, dove una delle maggiori società di sicurezza informatica fa sapere che nel paese WannaCry ha infettato centinaia di migliaia di computer di quasi 30.000 istituzioni, da enti pubblici a università, da bancomat a ospedali. Proprio dalla Cina potrebbe ora ripartire l'epidemia. Dagli Stati Uniti, FBI ed NSA nel frattempo fanno sapere di essere al lavoro per individuare i responsabili del cyberattacco. Per proteggersi, gli esperti consigliano di aggiornare le versioni di Windows installate nei PC, non aprire email o link sospetti e fare una copia dei propri dati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche di questo torneremo a parlare più avanti, lo faremo con il capo della Polizia Postale per cercare di fare un punto, anche per capire il come muoversi di fronte a un'eventuale infezione del proprio computer. Due vicende politiche tengono banco in queste ore, sono quella di Maria Elena Boschi e la vicenda di Banca Etruria, dall'altra parte quella della Lega all'indomani del voto per le primarie tra i militanti. Iniziamo dunque dalla vicenda Boschi, il punto di oggi. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Caso Etruria. Simone, che aspettava il tassello mancante, ovvero le dichiarazioni dell'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, citato nel libro di Ferruccio De Bortoli, a proposito delle vicende della Banca Toscana e del ruolo dell'ex ministro Maria Elena Boschi. Ghizzoni, lo diciamo subito, non conferma né smentisce quanto affermato da De Bortoli, ovvero di pressioni della Boschi perché Unicredit vagliasse un intervento in Banca Etruria. Adesso non parlo, spiega Ghizzoni a Repubblica, perché non si può mettere in mano a un privato, cittadino la responsabilità della tenuta di un governo. Se mi convocheranno parlerò alla commissione d'inchiesta. Commissione d'inchiesta alla quale guarda anche Matteo Renzi. Il ministro Boschi ha chiarito, dice il segretario PD, ma si faccia partire la commissione d'inchiesta sulle banche. E a chi dice che è ferma per colpa nostra, aggiunge Renzi, ricordo che il PD ha votato a favore e i 5 Stelle no, giusto per fare un esempio. Sul caso Etruria, posizioni chiare anche dalle altre forze politiche. Nel caso Boschi non c'è alcuna evidenza di reato, spiega Berlusconi. Dimissioni per la Boschi, dice invece Di Maio, 5 Stelle. Il sottosegretario alla presidenza Lasci attacca da MDP Speranza. È tutto, linea allo studio. E siamo alle vicende leghiste. Matteo Salvini stravince le primarie e ora nella Lega Nord c'è chi, come Umberto Bossi, fra i fondatori del movimento, medita l'addio. Ci sono migliaia di fuoriusciti ed espulsi, dice Bossi, che hanno messo assieme un partito abbastanza grande attorno a Roberto Bernardelli. Io potrei valutare la situazione. Bossi è convinto che con la vittoria di Salvini la Lega è finita perché guarda anche al Sud Italia. Salvini si augura che nessuno esca dal partito, ma dice non metto il guinzaglio. Se Bossi vuole bene alla Lega, ci aiuti nella battaglia. E annuncia, la Lega Nord non sarà alleata di Alfano neanche in Lombardia, dove per le regionali 2018 Roberto Maroni vuole confermare l'alleanza di centrodestra. Chi sta reggendo il moccolo a Renzi e alla Boschi, argomenta Salvini, non può essere alleato della Lega. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il fatto era noto, ma oggi ci sono i dettagli finanziari dell'operazione che porterà alla creazione del maggior operatore autostradale del mondo. Arriva l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Atlantia su Abertis. Al prezzo di 16,5 euro a titolo, la holding italiana punta al 100% del gruppo spagnolo per un'operazione che nel complesso vale oltre 16,3 miliardi, con un'offerta mista carta e cash. L'obiettivo è creare il più grande polo autostradale al mondo, con più di 14.000 km di via pedaggio e un EBITDA complessivo di 6,6 miliardi. Come detto, la proposta contempla un corrispettivo in denaro di 16,5 euro, con la possibilità però di optare, in tutto e in parte, per una parziale alternativa in azioni. L'offerta, che non punta al delisting di Abertis, prevede alcune condizioni sospensive, tra le quali la soglia di accettazione di un 50% più un'azione, mentre relativamente alla proposta parziale devono essere consegnate almeno 100 milioni di azioni del gruppo iberico, pari a poco più del 10% del capitale. Laura Galvagni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sta facendo discutere la proposta del ministro della difesa Roberta Pinotti, che lancia l'idea di un servizio civile obbligatorio. Abbiamo sentito su questo che cosa ne pensa Luigi Bobba, che è sottosegretario al lavoro, ma soprattutto è la persona che nel governo ha proprio la delega al servizio civile. Sentiamo cosa ci ha detto. Al di là del problema del costo, che sicuramente non è proprio irrilevante, c'è però un problema di scelta. Io condivido il senso e l'obiettivo, che la motivazione che ha spinto il ministro Pinotti a dire può essere importante, utile per dei giovani dedicare un qualche tempo della loro vita ad un servizio per la comunità. Il tema è: la strada dell'obbligatorietà è la strada giusta, è la strada più efficace? A mio avviso, considerando che da 3 anni mi occupo, prima col governo Renzi, adesso col governo Gentiloni, con la delega del servizio civile, credo che potrebbe essere una scelta controproducente. Mi spiego. In particolare, se guardo alle indagini che abbiamo fatto fare sui giovani, al lavoro che ha fatto il professor Rosina nel rapporto giovani, noi vediamo che nella cultura giovanile, se imponiamo questo obbligo, di fatto generiamo un cortocircuito. E allora forse varrebbe la pena, come stiamo cercando di fare con la riforma che ha fatto diventare il servizio civile universale, ma pur sempre volontario, di accrescere i numeri, cioè le risorse disponibili per ingaggiare, per dire di sì a tutti quei giovani che chiedono già oggi di fare servizio civile. Tenga conto che siamo passati da poche migliaia a quasi 50.000 che avremo in servizio da quest'anno, a partire dall'estate fino al prossimo anno, ma il numero delle domande è quasi ancora doppio rispetto a quello che sono, diciamo, le disponibilità effettive. Quindi risorse permettendo si potrebbe arrivare a 100.000. La settimana prossima ci sarà un altro bando, sottosegretario, no? Sì, la settimana prossima ci sarà un bando di 49.000 posti di giovani che entreranno in servizio fine dell'estate e rimarranno fino al prossimo anno, considerando che dura un anno il servizio. È il bando più importante in termini di numeri, dà il segno di questa crescita. Oh, visto che abbiamo parlato anche di cyberattacchi, c'è un ascoltatore affezionato, Davide D'Amanto, che ci chiede se ieri anche la rete della Juve è stata hackerata, visto che ha beccato questi tre gol dalla Roma. No, non crediamo proprio. Detto ciò, sono una giornata di campionato importante, Carlo Gentile. Ma è un'ipotesi interessante quella della rete hackerata. Però il fatto è che la Juventus ieri sera poteva chiudere lo scudetto con un pareggio, addirittura passata in vantaggio con le Mina, e poi una grande Roma. Bisogna rendere merito alla Roma e a Spalletti per la grande reazione che ha avuto, vincendo alla fine 3-1, rimandando il discorso chiusura dello scudetto quantomeno alla settimana prossima, quando la Juventus ospiterà un Crotone che anche ieri ha vinto e che ancora crede giustamente nella salvezza. La Juventus ha fatto molto turnover, c'è la Coppa Italia contro la Lazio mercoledì, e su questo si può discutere, ma la domenica ha avuto anche altre facce, quelle tristissime dei tifosi dell'Inter, che addirittura se ne sono andati dopo il primo quarto d'ora di gioco in una gara persa in casa con il Sassuolo 2-1, un grande Napoli 5-0 a Torino su un campo certamente non facile, e che per qualche ora ha superato la Roma in questo sprint al secondo posto. Dunque un campionato che in fondo nelle ultimissime battute torna vivo come non lo è mai stato da mesi. La domenica ha altre facce, anche come quella di Lewis Hamilton e di Sebastian Vettel, che insomma hanno duellato parecchio in Spagna. Alla fine ha vinto Hamilton, ma Vettel con la Ferrari continua a mantenere la leadership nel mondiale. Anche la faccia da indio di Nairo Quintana, che ieri sulla prima salita vera del Giro d'Italia, il Blockhaus, ha staccato tutti e ha dato un minuto a Nibali, ma siamo solo all'inizio. Tappa di oggi, che cos'è? Una crono, se non sbaglio? Sì, oggi sì, è un'altra tappa estremamente interessante, però ripeto, siamo alle prime battute, dunque i tifosi di Nibali, i tifosi italiani non disperino. Grazie dunque a Carlo Genta, che ritroviamo come sempre in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso ci fermiamo, mentre siamo sempre anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, e poi ricominceremo il nostro giro per l'Italia quasi obbligatoriamente da Crotone, dalle vicinanze di Crotone, da Isola di Capo Rizzuto, dove c'è stata questa operazione che ha portato in manette una serie di persone. Si pensa che ci siano le mani dell''Ndrangheta su alcuni servizi all'interno del CARA, il centro per rifugiati. È finito in manette anche un prete ed è finito anche il presidente, il direttore della Misericordia locale che gestiva questo CARA. Ne parleremo con una deputata che in quel CARA c'è stata parecchie volte, se ne è occupata e ha chiesto anche conto della gestione di questo CARA in commissione antimafia. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dell''Ndrangheta e adesso ci torneremo, che mette le mani nella gestione del centro rifugiati in provincia di Crotone, che è tra i più grandi d'Europa. Abbiamo parlato anche delle mani di Cosa Nostra sui servizi per la Lidl e in quello dei vigilantes del Tribunale di Milano. Ci siamo occupati di Macron e dell'incontro che avrà questa sera con Angela Merkel, di cyberattacchi, anche su questo torneremo tra un attimo, di Autostrade, di Atlantia, che dà i dettagli finanziari dell'operazione con la quale vuole acquisire Abertis. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo proprio da Isola Capo Rizzuto, ma non prima di aver detto agli ascoltatori che ci hanno scritto sia su Facebook, sia su WhatsApp, sia via SMS al 349-238-6666. Sì, ci siamo sbagliati, il giro oggi riposa, la crono è domani, la crono che ci sarà è domani. Scusate, un po' d'ansia, io sono di quelle zone, di Bevagna, vicino a Montefalco, dove ci sarà la crono di domani, e quindi mi sono evidentemente portato avanti. Celeste Costantino, deputata di Sinistra Italiana, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Siede in Commissione Affari Costituzionali, è capogruppo per Sinistra Italiana in Commissione Bicamerale Antimafia, nella quale si è occupata proprio e anche della vicenda di Isola di Capo Rizzuto, un centro, un CARA nel quale lei è stata più volte anche a verificare quale fosse la situazione. Che situazione ha trovato e che perplessità ha sollevato lei su quel centro? Allora, noi la prima denuncia l'abbiamo fatta il 9 settembre del 2013 attraverso un'interrogazione parlamentare in cui chiedevamo conto della morte di Mustafa Anaki, un marocchino di 31 anni che era ospite all'interno di quel centro, a cui dopo, insomma, si è verificata, dopo questa morte, la rivolta proprio degli ospiti del CARA di Isola Capo Rizzuto. La seconda interrogazione è datata il 5 dicembre 2014 a seguito di una mia ispezione a sorpresa che feci lì al CARA, in cui trovai una situazione veramente al di sopra dell'umanità, perché c'erano container da 4 posti abitati da almeno 10 ospiti, materassi sudice senza lenzuole, pietre adibite a fornelli dentro i container, quindi rischiosissimi. Poi erano assolutamente privi dei più elementari requisiti igienici, bagni senza scarico, fogni a cielo aperto, insomma una situazione al di là sì. del bene e del male. Quando io presentai queste interrogazioni, chiesi conto al ministro Alfano, le risposte furono sempre le stesse, era tutto in regola, la gestione di quel CARA che era in mano appunto alla Misericordia, che era già sospetta, perché io ho visitato tanti CARA, tanti CIE in Italia, ed era veramente incredibile anche la modalità, l'approccio con cui i gestori davanti a me, diciamo, mi facevano fare la visita e l'ispezione, un senso di impunità assoluta. Sì, tra l'altro, se tra i documenti che si trovano su internet, anche sul sito della Camera dei Deputati, c'è una richiesta esplicita, no? Durante un'audizione con Mario Morcone, allora a capo del settore immigrazione del Viminale, nel quale lei chiede, ci dà qualche chiarimento su Isola di Capo Rizzuto, perché la gestione, la faccio semplice, non mi è molto chiara, e Morcone dice, guardi, qua abbiamo un'informativa della prefettura, e risale anno 2015, quindi parliamo di 2 anni fa, nel quale Morcone le dice, un'informativa della prefettura che parla di per così dire infiltrazioni possibili dell'andrangheta dal lato soprattutto del catering, per così dire, cioè della fornitura di cibo ai migranti, no? Sì, era il 20 ottobre del 2015. In quell'audizione Mario Morcone, su mia sollecitazione, dice questo, ma dice anche in maniera un po' stizzita, mi risponde dicendo sì, ma se quell'ente gestore ha vinto la gara in maniera regolare, noi non abbiamo modo di poter intervenire. Anche questo è documentato, perché chiaramente sì. Io stamattina sono andata a rivedermi un po' tutto il materiale che ho accumulato in questi anni, dal 2013 al 2015. Quindi la politica sapeva, era a conoscenza, anzi per una volta possiamo dire che una parte della politica ha denunciato prima che arrivasse la magistratura su questo terreno. Il perché non ci si è voluti muovere dal punto di vista dell'approfondimento di denunce che arrivavano da giornalisti, da movimenti, da comitati e da forze politiche, come nel nostro caso, non si capisce bene. Io penso che Alfano deve dare delle spiegazioni, il ministro Alfano deve dare delle spiegazioni. Sarebbe il caso di dimettersi davanti a questo scempio, perché, ripeto, a differenza di altre questioni, ho letto anche le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Gelli, presidente della commissione sì. parlamentare d'inchiesta sui CARA e sui CIE, in cui dice una situazione inquietante. Io non so come rappresentanti politici che hanno delle responsabilità, come anche il caso dell'onorevole Gelli, che presiede addirittura una commissione che sì. si doveva occupare esattamente di questo, oggi cadono dal ferro, come se questa vicenda la scoprissero per la prima volta. No, allora, sono anni che la denunciamo, che la denuncia anche la società civile, e non si è intervenuto per tempo. Quindi io oggi sono chiaramente molto sì. felice di questa operazione. Sì, le devo chiedere di stringere un po', Costantino, sì, mi scusi. Di questa operazione, però non posso che rammaricarmi del fatto che per tanti anni però delle persone hanno sofferto all'interno di quel centro. La ringrazio. Grazie Celeste Costantino, deputata di Sinistra Italiana e componente della Commissione Antimafia. Nunzia Ciardi, capo della Polizia Postale. Buongiorno dottoressa Ciardi, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, come ci difendiamo da questo ransomware, che tecnicamente vuol dire un programma che ti si installa su un computer e ti dice o mi paghi o ti cancello tutti i file, che si chiama WannaCry e che sta mettendo paura a tutti? Sì, è un virus finalizzato alla richiesta di riscatto. In realtà prende in ostaggio il computer, sostanzialmente il dispositivo, i dati, eccetera, e chiede un riscatto. Questo è stato un attacco devastante effettivamente e noi ci siamo attivati immediatamente come polizia postale per monitorare la situazione. Da venerdì pomeriggio che siamo 24 ore su 24 su questo caso per capire che cosa sta succedendo in Italia e per cercare di fare il massimo per prevenire l'espandersi di questo virus. Attualmente la situazione in Italia non appare drammatica come in altri paesi. Siamo riusciti per adesso a contenere, dico per adesso perché oggi è ancora una giornata in cui i conti si devono fare, perché hanno riaperto oggi le aziende, gli uffici eccetera e stanno quindi lavorando sulle macchine, stanno come dire mettendo in atto anche i consigli che noi abbiamo dato per cercare di contenere l'epidemia. Abbiamo distribuito gli indici di compromissione a tutti e a tutte le infrastrutture critiche per dar modo di elevare i livelli di sicurezza e di contenere l'espandersi di questa infezione tremenda che è stata molto molto pervasiva. Per adesso l'Italia ha qualche segnale di attacco, però come dire tutti target non pericolosi per il paese. Abbiamo avuto un paio di università, un paio di aziende, ma tutte su terminali periferici che non hanno bloccato servizi essenziali. E questa... Siamo comunque in attesa di capire meglio. E questa è una buona notizia. Riesce a condensarmi in 20 secondi che cosa devo fare io, semplice utente che entro in azienda, accendo il computer, poso che molti lo avranno già fatto in realtà, visto che siamo, è lunedì e sono le 13. Prego. Non sottovalutare la sicurezza informatica mai, quantomeno applicando regole semplicissime quali quella di tenere il sistema operativo costantemente aggiornato. Bisogna tener conto che questo virus ha attaccato attraverso una falla di Windows che aveva già rilasciato gli aggiornamenti. Chi ha aggiornato in tempo non è stato colpito. Quindi tenere il sistema operativo costantemente aggiornato, l'antivirus costantemente aggiornato, un backup dei dati sensibili sempre e tenerlo offline, perché se c'è un'infezione il backup è salvo e teniamo almeno i nostri dati sensibili al di fuori del circuito dell'infezione. Perfetto, io la ringrazio, grazie Nunzia Ciardi, capo della Polizia Postale, per essere stata con noi e per averci anche dato quei consigli, oltre ad averci dato un aggiornamento su quello che succede. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: la 'Ndrangheta nella gestione del centro rifugiati di Isola di Capo Rizzuto, in manette anche un prete e il vicepresidente delle Misericordie. Le mani di Cosa Nostra sui servizi per la Lidl e in quello dei vigilantes del Tribunale di Milano, 15 arresti. Cyberattacchi, nessuna nuova infezione di computer, dice Europol. Non ci sono stati particolari problemi in Italia, come avete sentito poco fa dalla capa della Polizia Postale, ma in Cina sarebbero stati colpiti centinaia di migliaia di PC. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. E a chiudere questa trasmissione, che come sapete lunedì è un po' più corta, ci occupiamo degli PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche. Ce ne siamo occupati in passato, lo sapete, della contaminazione in alcune falde in un'area piuttosto vasta del Veneto. Oggi Greenpeace ha presentato a Padova i risultati di una sua ricerca sulla presenza nell'acqua potabile. Campioni prelevati in aprile in 18 scuole primarie e 7 fontane pubbliche nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo. E i risultati sono questi. Giuseppe Ungherese, della campagna inquinamento di Greenpeace, al microfono di Laura Bettini. I comuni in cui l'acqua è più inquinata sono quelli della zona già nota per la contaminazione. La presenza di queste sostanze è stata riscontrata nell'acqua potabile dei principali capoluoghi veneti, da Verona a Vicenza a Padova, e in metà dei campioni analizzati i PFAS presenti nell'acqua potabile superano i livelli consentiti in altre nazioni. In particolare leggo gli Stati Uniti e la Svezia. Stati Uniti che hanno già vissuto questo tipo di emergenza, quindi diciamo che ne hanno una maggiore conoscenza. Sì, senza dubbio, gli Stati Uniti sono stati tra i primi a dover fronteggiare la presenza di queste sostanze nell'acqua potabile. Hanno adottato delle limitazioni molto più stringenti per queste sostanze, consci dei grossi problemi che possono generare alla salute pubblica. Qui in Veneto invece i livelli consentiti di queste sostanze sono fino a 7,5 volte più elevate rispetto agli Stati Uniti. Sentiamo Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.